Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Io credo che nel mare dell'esistenza di un essere umano navighino due vite parallele. Durante la settimana lavorativa sono l'idraulico, il barbiere, il bancario o l'imprenditore. E ognuno appartiene a una classe specifica. Nel weekend, no. Che meraviglia il fine settimana. E tutto inizia proprio oggi. Tutto inizia di venerdì. Mi chiamo Luca Borleri, ho 24 anni, vivo a Bergamo. Sono un perito elettrotecnico, studio lettere. Leggo Wallace, ascolto gli After Hours. Legge Wallace, ha detto, non l'avevo sentito questa. Ascolto gli After Hours e leggo Wallace. Allora, a proposito di Wallace, visto che ieri avevamo parlato di un pezzo di Foster Wallace, di David Foster Wallace, legato all'imparare a pensare, ci sono stati dei commenti su Facebook sui quali non sono d'accordo e quindi ci tengo a puntualizzare un po'. Quello che lui racconta, credo che quello che lui racconti in quel pezzo lì, che tra l'altro abbiamo pubblicato, andatevelo a leggerlo direttamente sul profilo Facebook, è Matteo Caccia, io sono qui. Non parla di una tecnica per imparare a pensare, come dire, una sorta di grammatica del pensiero. Parla della consapevolezza, che è un'altra cosa, che è il fatto di sapere sempre che dove sei immerso e perché quella roba che hai intorno ha senso, altrimenti, come dice lui, rischiamo di ipnotizzarci dal monologo continuo che abbiamo in testa. Questo per chiudere la puntata di ieri. Oggi invece facciamo una roba, ragazzi, sarà un anno che non lo facciamo. No, un anno forse è un po' troppo. Sarà da luglio, un mese, Bonini, una volta all'anno. Oggi apriamo i telefoni. 800240024, gli sms anche sempre 349-238-6666. Perché il racconto di Luca, che avete sentito in apertura, parla di un argomento molto semplice, è una forma di riflessione riguardo alla giornata di oggi, riguardo al venerdì, che è una roba che tutte le settimane torna, no? È l'ultimo giorno in cui si lavora ed è il giorno appena prima di essere liberi e fare quello che si vuole. E quindi oggi il suo racconto e la puntata verte esattamente intorno a quella cosa lì, al fatto che la nostra vita è divisa, gioco forza, in due parti, in quello che dobbiamo fare e in quello che vogliamo fare. Quello che dobbiamo fare dura grosso modo da lunedì al venerdì, e quello che vogliamo fare invece ce lo infiliamo, anche se ci sta stretto in quei due giorni che rimangono nel fine settimana. Ecco perché sono le 16:09, è venerdì 14 ottobre 2011, questo è probabilmente, lo dico perché insomma seguo il meteo in maniera abbastanza concreta, questo è probabilmente l'ultimo fine settimana tiepido di questa stagione. Quindi se voi siete in auto, o se vi state preparando per andare in auto, o per andare in aereo, o in treno, ma soprattutto se state per andare a fare quello che vorreste essere, cioè quello che fate nel fine settimana, 800240024, oppure un sms al 349-238-6666. È un po' come dire: da lunedì a venerdì lavoro in banca, il sabato e la domenica sono un paracadutista, oppure da lunedì al venerdì sono un idraulico, il sabato e la domenica faccio l'arrampicatore, oppure un altro esempio, perché non hanno capito, da lunedì al venerdì sono un impiegato, il sabato e la domenica sono un velista. Ci siamo capiti? Se siete pronti per partire, per fare quello che vorreste essere, 800240024, oppure 349-238-6666. Dove siete e cosa state andando a fare? Sandro, ad esempio, mi scrive: io sono il medico di una squadra di rugby. Non una grossa squadra importante, ma una squadra con cui condivido il cammino. I ragazzi mi conoscono e mi aspettano. Sanno che sono a bordo campo per loro, per rappezzarli e rimandarli in campo a soffrire. Una specie di Maddalena con bente e suture. Non ci si diverte in panchina, ci si diverte in campo, ma sono tutti i miei figli, anche perché mio figlio è uno di loro e io lo sono stato tempo fa. Io sto bene con loro, l'allenatore e con il massaggiatore. È quasi un clan in cui sono lo sciamano. È un bel modo di essere qualcosa nel fine settimana. 349-238-6666. Andrea, durante la settimana faccio l'idraulico, il sabato e la domenica sono un papà e un endurista. Che vuol dire che vai in enduro, immagino. Che spero non metta insieme le due cose. Cioè, endurista con il figlio. Lara, sono l'infermiera, ma nel fine settimana sono un corridore, nel senso che infilo le scarpe da corsa e via. Non è l'unica, lei c'era anche. Dov'è? L'avevo perso. Marco, eccolo qua. Marco, da lunedì a venerdì sono un commerciale, il sabato e la domenica sono a Bebe Bikila. Allora, però non così tanto. Cioè, anche un gradino sotto va bene. Quando corro ogni tanto chiudo gli occhi per alcuni secondi e torno all'essenzialità. Quando corro sogno di essere Abebe Bikila. E poi Federica, a volte mi sembra di essere niente. Fede, su. Dai, stai su, eh? Stai su, che alla fine non è così male come sembra. Chi siete quando fate quello che volete? Dove state andando per essere quello che volete essere nel fine settimana? 80024 0024 oppure 349 238 6666. Questo invece è Luca. Le 7 della sera, ufficio. Sì, dovrei lavorare, ma ho voglia di parlare un po' a me stesso. Mi metto a scrivere. Sono uscito a fumare una sigaretta poco fa. Mi aiuta a pensare a fumare, ma è sicuramente una banale scusa da perfetto tabagista. Oggi è venerdì e già so che domattina sarò di nuovo seduto qui, su questa sedia. Ma nonostante tutto, il venerdì resta sempre un giorno magico per chi lavora, per chi studia anche, perché no, ma anche per chi fa la casalinga. La mattina al risveglio il venerdì mi sento come un cellulare che ha passato sotto carica tutta la notte. Il dentifricio tra i denti lascia un sapore diverso dal solito, buono e fresco. La brioche della colazione sembra tanto invitante quanto quella delle pubblicità della TV. E anche se sono solo, sul tavolo, mentre tutti dormono nelle altre stanze, il venerdì penso che la mia famiglia sia perfetta come quella che mangia i 5 cereali, a pochi passi dal mulino, e non importa se fuori dalla finestra non vedo altro che decine di case identiche alla mia. Io sono un perito elettrico e lavoro in una società di servizi di anticorrosione per strutture metalliche interrate, una cosa un po' strana. Occupo parte del mio tempo libero studiando, è quello che ho scelto di fare, perciò lo facciamo. L'aria fuori è elettrica. C'è sempre una brezza fresca che soffia, anche nelle calde mattine estive, il venerdì. Mi sento vivo e sano. Non ho bisogno delle vitamine il venerdì. Sarei capace di dare un buongiorno a 37 denti al mio più acerrimo nemico. Questa mattina ho percorso come sempre il vialetto nel cortile, fino all'auto. Solitamente impreco tra i denti, perché il vicino, quando incrocio il ramo del suo pero, mi accorgo che il vicino ha questo pero che sporge di un buon metro e mezzo di qua dal muro di cinta. Oggi non l'ho insultato. Ho pensato a quando verrà settembre e io avrò il pieno diritto di raccogliere e mangiare tutte le pere di quel grazioso ramo. Chissà perché succede tutto il venerdì. Non lo so, non ne sono sicuro. Credo che nel mare dell'esistenza di un essere umano navighino due vite parallele. Durante la settimana lavorativa siamo l'idraulico, il barbiere, il bancario, l'imprenditore. Ognuno appartiene a una classe specifica che in fondo macina un po' di rancore. Anche un po' di disprezzo per quelli che non ne fanno parte. Nel weekend invece no. Che meraviglia il fine settimana. E tutto inizia proprio oggi, il venerdì. Smettiamo di essere programmati e vestiamo i panni della nostra seconda vita. Ci ritroviamo completamente svuotati da ogni pregiudizio di classe. Come quando eravamo solo ragazzi e le amicizie fiorivano a centinaia, ed è il tipo più paradossale. Boh, non lo so, magari mi sbaglio, ma quanti non sopportano il proprio datore di lavoro o il proprio superiore solamente a prescindere dalla divisione di potere che li separa. Poi succede che una domenica, al lago magari, ci si ritrova a scherzare con un tizio che non sappiamo essere un banchiere, magari pieno di soldi, e tu invece sei un cassiere al supermercato. E invece improvvisamente ci si trova così, per mangiare una pizza, in famiglia. Chi sfortunatamente, o perché comunque ha scelto un percorso diverso, riesce a combaciare le proprie passioni, i propri piaceri con il lavoro, quindi probabilmente vive un'unica vita. Se in futuro la laurea mi permetterà di fare qualcosa di diverso, che riguardi, non so, la letteratura o l'editoria o il giornalismo, ben venga. Adoro il venerdì. Il venerdì avviene una trasformazione dentro di noi, come quando il serpente si prepara a cambiare pelle. Il venerdì gli occhi di tutti quelli che incontro sono lucenti e colorati. Perfino le auto prendono vita, come possedute da un'anima. Rombano e si intrufolano in ogni spazio libero della corsia, per conquistare il più velocemente possibile il ritorno a casa. E poi sarà sabato, e la mia piccola auto smetterà di starsene lunghe ore abbandonata nel grigiore di una zona industriale. Sognando magari di posteggiare accanto alla Range Rover del mio capo, lontano dalla pioggia, la pioggia che si infrange su di lei per delle ore. E fino a lunedì non strombazzerà più il suo clacson dietro a un'utilitaria che le rallenta l'andatura. L'aspettano gli sterrati di collina, i cori provenienti dallo stadio, o una gita sulla riva del lago, o un bagno fresco a lavaggio automatico. Anche le auto hanno due vite, il venerdì. Lo sapevate che i nomi dei sette giorni della settimana hanno avuto origine in Babilonia? Ho scoperto che furono proprio i babilonesi ad attribuire ai giorni i nomi del sole, della luna e delle divinità dei cinque pianeti. In altre culture i giorni della settimana erano 5, a volte 10. Ma la suddivisione della settimana in sette giorni fu poi adottata dai greci e dai romani a partire dal IV secolo e poi anche dalle popolazioni germaniche. La maggior parte delle lingue di origine latina, come l'italiano, il francese, lo spagnolo, hanno preso i nomi dei giorni proprio attraverso il greco e il latino. Quindi il lunedì è il giorno della luna, martedì Marte, Mercurio, Giove, Venere e Saturno. La domenica invece è il giorno del sole. Insomma, tutto per dire che in teoria se volessimo prendercela con qualcuno, dovremmo prendercela con qualcuno che è vissuto molti anni fa e che ha deciso di dividere la settimana in quel modo lì. E possiamo giusto pigliarla e sorbircela così. E accettare di vivere due vite, come dice Luca. Perché anche se sembra assurdo, in realtà non lo è. Tutte le persone che fanno una vita scandita dai giorni feriali e da quelli festivi hanno come un'esistenza a metà. La vita del devo e quella del voglio. E la vita che devo è quella che hai imparato ad accettare a vivere sin da quando c'hai 3 anni. Un giorno di settembre i tuoi genitori, quelli di cui ti sei sempre fidato, che ti hanno accudito e amato, una mattina di fine estate ti svegliano presto, ti infilano un grembiulino colorato e ti dicono che oggi vai a scuola. Quello che non ti dicono però è che la tua vita da quel giorno cambierà per sempre. E non te lo dicono perché non sono mica scemi, e forse perché in coloro sanno già che la tua vita non cambierà per forza in meglio. E lo sanno, lo vedono quando ti lasciano in lacrime sulla porta dell'asilo. All'inizio è stato un trauma, poi ti ci sei pure abituato con la routine. E l'hai riempita di roba per far finta che non fosse poi così male. Anche se in un angolino della tua testa una vocina continuava a ripeterti che in fondo stare a casa e uscire a fare quello che avevi sempre fatto fino a quel punto, e cioè giocare, sarebbe decisamente meglio di quello che adesso ti costringono a fare. Dopo qualche tempo però realizzi che esiste una specie di tregua a questa vita del devo. È il fine settimana. E lentamente con l'arrivo del sabato capisci che quei 2 giorni sono misteriosamente, sono inaspettatamente liberi. Che puoi tornare ad infilarci tutto quello che vuoi e non solo quello che devi. E poi passano gli anni. Diventi un adolescente, poi cresci. Forse maturi, forse no. Conosci persone nuove, ti innamori, ti separi, ti rinnamori. Scopri la tua strada o passi il tempo a cercare di farlo. E che sia quello oppure no, ti tocca lavorare. E alla fine la tua vita di 30 o di 40 anni non è così diversa dalla tua vita di 3 o 4. Ti svegli la mattina del lunedì e ti chiedi perché. Che senso ha? Fai scorrere la settimana come un tapirulan sotto i piedi, anche se non ne vuole sapere di accelerare. Arrivi a mercoledì e già un pezzetto è alle spalle. Il giovedì l'aria inizia a essere frizzante e respirabile, poi finalmente il venerdì, con il suo carico insopportabile di promesse. Il fine settimana non lo considero nemmeno, perché è talmente subdolo che mi viene tristezza solo a pensarci. Pensare che il tempo è diviso in dovere e volere, che uno degli affanni maggiori della nostra vita sta nell'incastrare nel modo più preciso possibile i nostri desideri in quei 2 giorni rimasti, è come minimo malinconico. Una volta ho sentito una persona dire che il fine settimana era la sua unica finestra sulla libertà. Erano molti anni fa, e quella persona usava quei 2 giorni e quella libertà per riempirsi di roba, che gli aumentasse oppure gli diminuisse quel senso di libertà. Non lo so esattamente, so però che alla fine di tutto penso una cosa molto semplice, che oggi è venerdì, e per dirla come l'ha detta Luca, chi se ne frega di lunedì se oggi è venerdì, e tutti sono un po' innamorati il venerdì. Maiko come in questo caso qua. Mai come dopo il racconto di Luca mi viene da dire grazie al cielo oggi è venerdì. Perché se non l'avessi letto io, in qualche modo l'avrebbe detto lui. Pronto Luca? Ciao Matteo. Ciao, come stai? Benissimo, benissimo. Dove ti trovi in questo momento? In questo momento sto fuori dall'ufficio. Tra un po' si torna a casa. Perché tu ricordami, tu sei perito informatico, giusto hai detto? Elettrotecnico, sì. E cosa fai esattamente? Esattamente, uso la corrente elettrica. Ok, fino a qua ci siamo. Però dammi due termini tecnici, quelle robe che mi esaltano perché non so che cosa vogliono dire. Protezione catodica. Benissimo, dammi un'altra. Anticorrosione per strutture metalliche interrate. Fantastico, da quanto lo fai? Da 5 anni. Ah, ok. Però tu fai anche un'altra cosa. Un'altra cosa, tra le tante, studio. Studi che cosa? Lettere. E a che punto sei? Sono al primo anno. Quindi, ma hai già dato qualche esame? Sì, qualcuno. Tipo? Tipo letteratura latina, istituzioni di filosofia. Qual è? Ma letteratura latina non è uno dei più difficili? Diciamo che mi sono portato avanti. Senti Luca, tu quanti anni hai? Me lo ricordi per piacere? 24. Ne hai 24. Eppure già accusi così tanto questa scansione della settimana? No, io non l'accuso per niente, sono i miei amici che l'accusano. Il venerdì sono felicissimi e la domenica sera mi fanno passare delle brutte ore perché gli viene la tristezza dell'inizio settimana. Senti, tu hai trovato il modo per infilare nel fine settimana quello che ti piace fare oppure lo sparpagli durante la settimana? Ma in parte l'ho inserito con lo studio perché sennò non avrei iniziato un percorso così difficile, insomma. E poi durante la settimana ci metto qualche uscita con gli amici, insomma. Senti, qual è la tua intenzione però per il futuro rispetto agli studi e al lavoro che stai facendo? Ah, non lo so, quello che verrà davvero. Cioè non hai un progetto? No, quello dello studio non è assolutamente un progetto. Cioè quindi perché ti sei iscritto all'università, scusami? Perché volevo avere una motivazione in più per approfondire i miei interessi. Supero, Luca, ti sento un po' giù, Luca, c'è qualcosa che non va, mi pare, eh? No, va tutto bene, tutto bene. Ce l'abbiamo uno straccio di fidanzata, Luca, o no? No, sono liberissimo. Vabbè, no. Me lo dici come se potessi approfittarne. No, ne sono portata una per tanti anni, adesso sono felicissimo così. E non hai intenzione? No, devo recuperare tutti gli anni persi. Senti, ad esempio, dimmi cosa fai questo weekend. Mamma mia, avete detto un nome se mi sente in radio. No, figurati, non ti preoccupare, non ascolterà mica questa radio, no? Non lo so. Senti Luca, io ti ringrazio molto, ti ringrazio per il tuo racconto, per la tua telefonata, però mi raccomando, perché adesso me la sto prendendo un po' a cuore questa cosa. Stammi su. Super. Bravo, super. Grazie mille Luca, ti abbraccio. Ciao Matteo. Ciao, buona giornata. Ciao. Voi siete qui. È un bel tipo Luca, si vede dalla foto che ci ha mandato, che trovate sul sito di Radio 24, alla pagina Voi siete qui. È un ragazzo, ha 24 anni, nella foto sta facendo un aperitivo, immagino, ha un bicchiere bianco in mano, una cannuccia rosa, una bella camicina di quelle belle stirate, un po' figa, e non guarda in foto e c'ha un po' l'aria di quello che un po' sono depresso. 349-238-6666, ma oggi soprattutto dopo direi un bel po' di tempo, 800-24-0024. Se state andando a fare quello che volete essere nei fine settimana, 800-24-0024. Un po' come uno che scrive: sono un rappresentante, ma al weekend sono un agricoltore. Now it's time to replay. On the flight to Venezuela. Faccio il venditore per un'azienda vivaistica, nei weekend l'apicoltore, sono promotore finanziario, nel fine settimana scorta tecnica. Cosa vuol dire? Scorta tecnica di cosa? In settimana ottimo operaio, fine settimana scarso golfista. Ma il migliore di tutti è quello che è arrivato dicendo: faccio l'impiegato in settimana e faccio il sindaco nel weekend. Pronto Paolo? Ciao Matteo. Ciao, come stai? Bene, devo dire bene. Beh, un po' sorpreso, ma bene. Devo dirlo anch'io. Senti, di dove sei esattamente Paolo? Ah, io sono di Sant'Omo Bono Terme, che è un comune in provincia di Bergamo. Di cui sei anche sindaco? Di cui sono anche sindaco. Ma perché? Perché ne sono nei fine settimana, scusami? Beh, di fondo perché io lavoro durante la settimana in provincia di Milano, faccio l'impiegato comunale, ecco. Per un altro comune? per un altro comune. Poi mi sono sposato con Marta e sono andato ad abitare in un paese vicino al mio di origine. Sì. Però sono rimasto attaccatissimo al mio comune e quest'anno sono diventato sindaco del mio comune. Da quanto? 4 mesi, praticamente da giugno abbiamo vinto le elezioni. Con quanti voti, Paolo? Quanti voti hai preso? 1100. Su quanti disponibili? 800. Beh, insomma. 2000. Beh, buono, direi. No, beh, siamo contentissimi, guarda, devo essere sincero. Insomma, durante la settimana faccio un po' l'impiegato, nel senso che ascolto un po' il mio sindaco e il sabato e la domenica divento io il sindaco e quindi comando io. Che giunta abbiamo, Paolo? Civica? No, una giunta assolutamente civica. Senti, dimmi la prima, tutti bravi ragazzi, come pensare altrimenti. Dimmi la prima cosa che abbiamo fatto appena saliti. Abbiamo rifatto i marciapiedi, l'illuminazione, i semafori, rotonde. No, veramente siamo arrivati, ci siamo seduti un attimo perché ci siamo guardati in giro, abbiamo detto adesso cosa facciamo. E avevate un programma chiaro, direi, Paolo. Chiarissimo, e volevamo solo provare a metterci un po' in gioco e ci stiamo riuscendo perché stiamo ascoltando la nostra gente, stiamo vedendo cosa succede. Senti, dimmi cosa facciamo per la cultura, qualche bello spettacolo di cabaret magari? Ma ti dirò, ultimamente abbiamo riproposto uno spettacolo di Paolini sul Vaillant, quindi qualcosa di culturalmente sostenuto. Ma con lui? Sostenuto. Con lui? No, con un attore locale che ha riproposto questa sua presentazione, è stato grazie un po' alle associazioni locali, è stata una bellissima esperienza. Paolo, ti ringrazio moltissimo e in bocca al lupo per tutto. Grazie, ciao, grazie a voi, ciao, buona giornata. Ciao, Matteo, ciao. Dai, prendiamone qualcun'altra. Andiamo da impiegato in settimana, nel weekend faccio l'illusionista, Woland, da Lucca. Pronto, Woland? Sì, ciao Matteo. Ciao, ma mi dici il tuo nome o lasciamo Woland? È quello. Cioè, Mago Woland? Sì, esatto. Che cosa fai? Prestidigitazione? Sì, più o meno. Cioè, tipo? Ma mi divido fra spettacoli per bambini e divido in due la fidanzata. Scusa? Questi due tipi di spettacoli. Ah, dividi in due la fidanzata. Davvero? Fai quella roba lì della sega? Sì, no, era proprio quello, no, però insomma un qualcosa di molto simile. Cioè, nel senso che lei rimane divisa in due parti, però? Sì, però dopo ne porto indietro una sola, Vabbè, senti, dimmi cosa fai durante la settimana, invece. E faccio l'impiegato in un'azienda. Di che cosa? Cartotecnica. Woland, ti ringrazio moltissimo, in bocca al lupo. Vai, credo, ciao, grazie. Ciao. Andiamo a Luca, imprenditore nel sabato e la domenica... No, imprenditore, ma il sabato e la domenica faccio simulazioni militari. Pronto, Luca? Ciao. Ciao, 49 anni, faccio l'imprenditore a Milano lunedì e venerdì. Dal lunedì al venerdì e sabato e domenica cambio anche il nome perché ho un nickname che è Pelaz, gioco in una squadra mimetica e ci spariamo addosso e vi ci fate come delle bestie, immagino. Vi fate del male anche oppure? Ma giochiamo con delle protezioni che sono obbligatorie, quindi il male si evita, però insomma può capitare, ecco. Che imprenditore sei, Luca? Cosa fai? Nell'ambito dei servizi aziendali. Beh, fammi un esempio. Praticamente mettiamo portieri e reception presso grandi aziende. Ok, Luca, ti ringrazio molto, in bocca ciao, al lupo. Ciao. Ciao, grazie. Andiamo, dai, l'ultima ce la facciamo. Giovanni della provincia di Cosenza. Pronto, Giovanni? Ciao. Ciao, Matteo. Come stai? Bene, tu come stai? Io benone. Senti, tu sei assicuratore, giusto? Io sì, faccio l'assicuratore, però della provincia di Catanzaro. Scusami, non Cosenza, Catanzaro. Quindi Catanzaro. Nel fine settimana invece? Io faccio praticamente il volontario dell'Avis, volontario sangue, vabbè, vampiri. Lo immaginavo, senti, nel senso che sei un po' infermiere, quindi fai proprio... No, sono prelievi. Solo un volontario, praticamente mi occupo solo di organizzare un po' gli eventi, faccio parte dell'esecutivo provinciale dell'Avis di Catanzaro, anzi colgo l'occasione per informarvi che noi... Domenica facciamo una manifestazione al capoluogo di provincia Catanzaro, sì, con tutte le nostre Avis provinciali, perché festeggiamo i 40 anni della nostra Avis provinciale. Giovanni, Catanzaro, grazie mille, in bocca al lupo. Grazie, ciao, alla prossima. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Appena finito il lavoro di giardiniere vado a casa, preparo lo zaino, stasera camminata al chiar di luna, domani e domenica si arrampica. Che sensazione di libertà. Gian Pietro, grazie a tutti quelli che fanno quello che non riescono a essere nel fine settimana, al contrario dei giorni feriali. Grazie però anche a Paolino Corleoni, a Tiziano Bonini e a Margherita Ina. La storia di oggi era la storia di Luca e parlava del venerdì. Quella di lunedì invece è la storia di Alessandro e racconta di fuggire. Mio fratello ormai aveva compiuto un anno e suo malgrado era diventato la mia valvola di sfogo. Insomma, lo torturavo.